Per la data del 15, come non una di meno, abbiamo deciso di rispondere alla chiamata nazionale rilanciata dalla rete Dire per un mese di mobilitazioni contro l'emendamento Buongiorno all'interno del DDL Stupri. È un emendamento che sposta la responsabilità di dimostrare di aver resistito, che ovviamente è una cosa molto, molto violenta, soprattutto per le persone vittime di violenza, sulla vittima e quindi su chi ha subito stupro o un tentativo di stupro. Dall'altro lato, viene cancellato completamente l'utilizzo della parola consenso, che invece, come sappiamo, è sancito anche dalla Convenzione di Istanbul, che sancisce che qualsiasi rapporto sessuale senza consenso è una violenza sessuale. E quindi si fanno dei passi indietro rispetto anche a tutta una serie di norme internazionali che l'Italia ha integrato nel proprio diritto. Il 15, quello che succederà è su Bologna. Una piazza, una manifestazione chiamata da nulla di meno insieme alla Casa delle Donne di Bologna, quindi il centro antiviolenza, che vuole dimostrare il proprio dissenso, comunque opporsi a questo tipo di emendamento che è stato proposto. Emendamento che tra l'altro va anche a inasprire le pene, cosa che in un'ottica che è quella di nulla di meno, che comunque è anticarceraria e che tenta di essere antipunitivista, di certo non ci fa stare più tranquille e di certo non ci soddisfa. Quindi il 15 l'appuntamento è alle 15 in piazza 8 Agosto, ci sarà un brevissimo concentramento con un paio di interventi di apertura della casa e di non una di meno, dopodiché si partirà in un breve corteo per Piazza Maggiore, dove invece seguiranno poi gli altri interventi, principalmente dei CAV, quindi dei centri antiviolenza sul territorio, e delle organizzazioni e dei gruppi e movimenti femministi e transfemministi.